i capi sono un numero con sopra un'etichetta. Per me i capi sono solamente una macchietta, una fascia maledetta che pensa solo alla ditta. Si seguono e comandano, mandano la disetta. Io ho consegnato volantini sotto l'acqua, e anche se ho studiato mi resta vuota la sacca. Non batto la fiacca, ma odio gli sfruttatori che pagano a provvigioni mansioni che hanno spessori. E un magna magna, è sudore che ti bagna. Guadagni 1.000 euro e 700 vanno in tasse. È una vergogna perché la gente sogna di farsi una vacanza, ma in sostanza quote basse. Non sono nessuno e non mi sento un messia. Tu fai rappresentante, lavori come uno schiavo, ma il tuo stipendio assomiglia a una fetenzia. Sei sfruttato, umiliato dentro un moderno medioevo, e accetti compromessi, promessi, permessi omessi, messi sulle tasche di chi fa i propri interessi, che adesso sono persi dentro i pacchi che sollevi. Mi chiedo se questo è un uomo proprio come Primo Levi. Pago gli interessi pure per lavorare, c'è pure permessi pure per guadagnare. Voglio un salario di diritto garantito, ma sopra i calendari a metà mese è già finito. Pago gli interessi pure per lavorare, c'è pure permessi pure per guadagnare. Voglio un salario di diritto garantito, ma sopra i calendari a metà mese è già finito. Preferisco avere niente ma spendere bene il tempo, perché fatto d'ore il decoro non è uno scempio. Mentre il tuo capo gira sopra quel suo macchinone, ma non ha la condizione della tua condizione. La passione è ciò che spinge questa mia misera vita, è solamente dalle pinge la ricchezza preferita ed è pulita. Che se guadagno poco per me, il tuo capo fa il re, ma vale meno di te. Sono stato una pedina, segnato con della china, ma adesso sono una mina che esplode sopra il contratto. Meglio lo spaccio che essere fatto pagliaccio da un capo a cui io non piaccio. Fai il magnaccio col mio patto. Manca rispetto in questo sistema insano. Vedo troppi imbroglioni come Angelina Alfano, che dicono con botte possa darmi lavoro, ma intanto vedo che di fronte c'ho un futuro che è nero. Ma intanto questo spero avanza e penso che non trovi frutti. Il mio capo li ha mangiati, il resto li ha distrutti tutti. Pago gli interessi pure per la